Allora, nella Halakha Kitzur, Shulchan Aruch, capitolo 21, alla voce, paragrafo 4, si parla del recuperare una tefilah che si è mancata. Allora, abbiamo detto che se lo si fa non appositamente, ma involontariamente, per qualche dimenticanza o problema, allora nella la prossima tefilah che viene, si può recuperare quella persa ripetendo di nuovo l'Amidà per la tefilah precedente che era stata persa. Solo nella tefilah che viene, non nella prossima. Adesso l'Halakha dice, Ach beyom sheyesh bo musaf, un giorno in cui si fa musaf, come per esempio oggi, che è Chol HaMoed, cioè non solamente l'Amidà normale, ma anche quella di musaf. Se per esempio, Im lohit palel shacharit, se una persona non ha detto la tefilah di shacharit, cioè non ha detto musaf nell'orario della mattina, yachole ashlima le achar mincha, può recuperare il musaf dopo che ha già fatto mincha. Vuol dire che è già passata un'altra tefilah, comunque potrebbe recuperare il musaf, perché de kevan disman tfilat musaf bediavad ad alaila, visto che l'orario di musaf a posteriori, quindi non a priori si fa così, ma a posteriori, se lo si perde, l'orario di musaf è ancora valido fino a notte, non come shacharit, visto che comunque il suo orario potrebbe a posteriori essere più allungato che mo mincha, è più simile a mincha come orario a posteriori. Imken, allora lo consideriamo che non sono passate due tefilot ancora, perché non è passato il tempo di due tefilot. Quindi, si può dire quella, quindi può ancora recuperare il musaf, anche se ha già detto, anche se ha già detto mincha, può recuperare il musaf. Imken lo avar shtei zmanei tefilot, non sono ancora passati due tempi, due orari di tefilot. Normalmente noi diciamo, hai mancato shacharit, se è passato l'orario di mincha, e non l'hai fatto, non l'hai recuperato. Poi è passato pure l'orario di Marvit, e sono già passati due orari di Tefilot, non puoi più recuperare. Ma nel caso di Musaf, che non l'hai fatto la mattina, visto che a posteriori il suo orario è fino a sera, anche se è già passato l'orario di Musaf, il normale orario, e l'orario di Muncha, allora in teoria sono passati due orari, no, perché a posteriori Musaf può essere detto fino a sera. Quindi lo puoi recuperare anche fino a lì. Ok? Uleachar tefilat musaf. Però, d'altra parte, una volta fatto musaf, e noi achole ashlim tefilat shacharit, non può più recuperare se si ricorda dopo di aver non fatto l'amidà di shacharit. E ha fatto già quella di musaf. Non può più recuperare quella di shacharit una volta fatta quella di musaf. Perché? Kevan she mazkir ba korban musaf, visto che nel amidà di musaf si fa riferimento al korban di musaf, giusto? E in areu yashet aleli tfilat shacharit, non può essere considerata come sostituzione alla preghiera di shacharit e poi ripetere di nuovo. Ok? Vayin prime gadim. Ach im adain lo avar zman tefilat shacharit. Questo stiamo dicendo se ancora non è passato il tempo di shacharit. Ma se ancora siamo nell'orario di shacharit, semplicemente ha fatto un errore che ha fatto già musaf, ma non ha fatto prima di fare shacharit, se siamo nell'orario di shacharit può recuperare shacharit ancora. Quello che abbiamo detto che non si può recuperare dopo che ha fatto musaf è solamente se è già passato l'orario di shacharit. Ok? Yachol itfalel shacharit af al pi shekvar itfalel musaf. Quindi è un problema anche di orari, non solamente del fatto di aver detto già musaf, che nel musaf si fa riferimento al korban musaf. A parte questo, se c'è l'orario, che siamo ancora nell'orario di shacharit, allora possiamo ancora recuperarlo, anche avendo già fatto musaf. Ok? Sì. Sembra che da tutte queste cose che noi abbiamo studiato, che Musaf sia una tefillah un po' più importante delle altre, perché in Musaf facciamo il cambio da Morid Attal a Sempre la stessa domanda. no, Sta poi no, scherzando. perché poi, no, poi stavo pensando un'altra cosa, che anche la Berakà dei Guanim la facciamo a Musaf, non la facciamo comunque a Che è arrivato a noi? ieri è arrivato. Ah. Grazie, Grazie. grazie. Non la facciamo a Sì. Shevirit anche la Berakà di Guanim. Cioè, sembra come che Cioè, sia il facciamo tutto a punto. Musaf, annunciamo È un la punto bracha di del. perno, dici tu, che punto. evidentemente perché ci si appoggia, perché ci si appoggia a Musaf a fare Cioè, queste forse cose? perché Musaf è lì per il Moed. Se il Moed è il momento in cui si inizia a fare quelle cose, allora la tefilà che lo distingue dalle altre è quella di Musaf, dagli altri giorni. No, No, ma anche. no, no, ma. Pure No? anche Giusto. questo, diciamo, questa possibilità di recuperare la tefillah di Questo è già un Musaf. discorso diverso, qui perché abbiamo il discorso degli orari. Degli orari. E ogni tefilà ha un suo orario, quindi Shacharit ha questo limite, Mincha ha questo limite. Musaf è diverso da Shacharit in quanto il suo limite a posteriori è più lungo. Di Però, conseguenza, scusa, si può recuperare entro l'orario. Dobbiamo aprire la sì. porta? Anche grazie. Faccio la Capito? metà di Shacharit, quando ho già fatto Musaf, faccio così com'era Shacharit. Sì, così come era Shacharit. A differenza che Se se invece rifai dopo Mincha, rifai quella di Mincha, o quella di, diciamo, faccio quella se Shabbat, fai quella di Shabbat. No, sì. invece no, qui fai così com'era perché ancora stai, abbiamo detto, Ok, solo nell'orario. Quindi comunque devi farla così. ma allora vorrei vedere che uno, sì, nell'evenienza, insomma, finisce di tutto Shacharit, poi per qualsiasi evenienza deve interrompere, ha tutto il tempo di Musa No, concluso, abbiamo detto a dopo. Solo a posteriori. posteriori. Cosa vuol dire a Sì, posteriori? Vuol dire se ti però sei non perché dimenticato. ci calcoli sopra, ecco. Esattamente. E se uno Se. facesse solo Musaf, Rav? Nella giornata. No, fa solo Musaf senza fare le altre tefillot. Cioè, manca. Dice, vabbè, non riesco a fare. Cioè, già sa che non, è inabilitato a poter fare tutte quante le tefillot per motivi. Ok. Se E fa solo Musaf. scelgo, se si può chiamare Questo scelta. già non è una questione alachica. Vuol dire, se uno ha possibilità di fare solo una delle tefilot, quale delle tefilot? Probabilmente è meglio fare una di quelle fisse. Non Musaf, immagino. Ciao, grazie. È da approfondire, non sono sicuro. Però credo che se una persona è impossibilitata a fare un'altra o a fare più di una, probabilmente è meglio che fa quella del momento, che si sveglia, il momento di Shacharit. In teoria direi così. Però E poi non lo ritorniamo al so. concetto di quello che si ripresenta più spesso, la Sì, prevalenza bisogna rispetto a vedere Musaf. se si applica. Se si apre. Allora, En tashlumin la tefilah sheifsid, non si può recuperare la tefilah persa, e la bisman tefilah semuchala, solamente, come abbiamo già detto, all'orario della tefilah che gli è appresso, la prossima tefilah. Lì hai la possibilità di recuperare. Avallo besha'a sheina zman tefilah. Ma non in un momento in cui non c'è proprio l'orario della tefilah. Cosa vuol dire? Che gon, per esempio, im shaha harbe, se una persona ha atteso molto, achar sheitpalel la tefilah, dopo che ha fatto la tefilah, sheih chovacha, è arrivato l'orario di Mincha, ha fatto Mincha, e poi è passato molto tempo. Ok? E si è ricordato che non ha fatto Shacharit. E la bisman shu osek bitfilah shichovat sha'a. Scusa, le fi. Dove siamo? Shichovat sha'a. E noi yachol itpalel o tashlumei tfilah shehifsid. Se ha atteso molto e poi si è ricordato di Shacharit che non ha fatto, non può più recuperarlo. Solo quando sta facendo la prossima tefilah, cioè ha perso Shacharit, adesso sta facendo Mincha, subito, qualche minuto dopo, fa un'altra amidah per Shacharit. Ma se ha atteso molto, è passato l'orario della tefilah, non fa più, non può più recuperare. Fi shelo tiknu tashlumin litfilah sheifsid, i maestri hanno istituito il concetto di recupero di tefilah persa solamente con la condizione e la bisman Sheuosek bitfilashi chovacha, che quando tu ti occupi della tefila, che è l'obbligo dell'orario, per nel nostro esempio mincha, allora nello stesso momento hai la possibilità di recuperare la tefila precedente. Ma dopo questo momento, perché? Perché visto che ti stai comunque occupando di tefila, sheaz, perché allora keivan sheuosek bitfila, visto che egli si occupa di tefila, un mashlim gam ken mashchiser, riesce anche a recuperare la tefila di cui la tefila che ha perso. Ma dopo che non si occupa più di tefila, che è passato tanto tempo, o è anche passato l'orario della tefila di mincha, non può più recuperarlo. È solo nel contesto di tefila che i chachamim hanno dato la possibilità di recuperare quella persa, e subito dopo, nello stesso contesto, non è solamente una questione dopo la prossima puoi recuperare quella precedente, deve essere nello stesso contesto. Quindi uno, diciamo, tempisticamente. Per stare nello stesso esempio, che se d'accordo non è detto Shakrit, dice Mincha, mentre dice Mincha, ancora nell'orario di Mincha, la finisce tutta Mincha, e non ha pensato che poteva recuperare Shakrit, passa un altro po', dopo che l'ha detta, ma è ancora nell'orario di Mincha, può isolatamente recuperare la tefila di Shakrit? Diciamo, se si può unire il contesto. No, diciamo, stiamo parlando nel caso che Dio si accorge tardi. Che... Sì, ho capito. Se si accorge dopo tempo che è passato. Però ancora nell'orario di Mincha. Non dice esempio. Solo l'orario, dice anche bismanju o sek bitfila. Cioè, sta nel contesto di tefila. Allora, non dico che dal momento che ha finito l'ultima parola di Mincha e si è ricordato, poi no. Quello è comunque sempre il contesto, sta lì, sta facendo. Ok. Però scusa, una cosa a me, perché è una cosa pratica proprio che mi è successa, mi sembra, due Shabbat fa. Sì. Allora, non avevo fatto Shakrit e quindi nemmeno Musaf di Shabbat, ho fatto Mincha. Dopo aver fatto la Midà, io mi sono fermato all'ultima Berakà senza fare Yul Ratzon. Ho aspettato il tempo dei famosi due medi di due Amot e ho cominciato quella, ho fatto la metà di Shakrit. Ok. Poi dopo sono arrivato sempre all'ultima Berakà e ho aspettato sempre il tempo. Ok. Ho fatto la metà di Musaf. Sì. Dopo la metà di Musaf ho fatto Yui Ratzon, Osè e poi ho fatto l'Enu Shabbea. Ok, ma noi abbiamo studiato che non si fa Yul Ratzon quando si recupera? No. Adesso il dubbio. No, devi concludere tutta l'amida. Perfetto. Comunque hai recuperato. Ogni volta bisogna finire. Si conclude l'amida totalmente. Anzi, l'abbiamo studiato, forse non c'eri. Si conclude tutto, perché senza? Sì. Pensavo che... No, ma credo che adesso mi perso un pezzo. Da what? Dai, conclude? Quale Gemara? Berachot? Comunque abbiamo studiato che si conclude la tefila, l'amida, si attende, è vero, l'abbiamo studiato nella Gemara, si attende qualche momento, non si attacca subito alla prossima amida, però si conclude, poi si attende un qualche momento e poi si riprende una nuova amida. Ok, ma si conclude anche con Osè Shalom? Tutto, si conclude. Tutto. Perché sei convinto che non si conclude? Non è conclusa. Si conclude tutto. Ho pensato che comunque erano tre... erano tipo dette delle cose... cose in più che non erano... Però è vero, ho capito il pensiero, però al tempo stesso potresti applicare il pensiero a tutta la midà, che la ripeti tutta, o le prime tre, le ultime tre. Quindi è tutta una conclusione totale, e poi attendi qualche momento e ripeti la midà. Bevakasha. Ora, tefilata tashlumin sheumit palel, quando si fa la tefilà di riprendere, cioè di recupero, Chayav litpalel, qual è la tefilà che deve fare? Che Moshe mitpalel az tefilat chova, cioè quella, la stessa di cui è l'orario di obbligo, è quella che deve fare. Per esempio, se ha mancato Mincha e venerdì pomeriggio, ad Arvit di Shabbat si ricorda, che tefilà ripete per recuperare la Mincha persa? Quella di Arvit di Shabbat, fa sempre la tefilà che è l'orario di quella tefilà. Che gon, e fa proprio questo esempio, im lo itpalel mincha be'erev Shabbat, se non ha pregato mincha alla vigilia di Shabbat, mitpalel arvit shtaim shel Shabbat, ripete la tefilà di arvit, doppia quella di Shabbat. Ovviamente stiamo parlando solamente della amidah. Af al pi shashnia bale tashlum tfilat chol. Anche se la seconda amidà che lui farà quel venerdì sera sta recuperando una tefilà di un giorno feriale, di mincha del venerdì pomeriggio che è feriale, però non andiamo secondo quello, guardiamo invece l'orario in cui ci si trova. Mikol makom keivan she'ata hu shabbat, visto che ora è shabbat, nitpalel shel shabbat, si fa la amidà di shabbat. Ve mitpalel shel chol, e addirittura se per sbaglio ha pregato la tefilà di recupero, quella feriale, quindi ha fatto la amidà di shabbat per shabbat. Poi ha detto, ah, ho mancato Minchà, ora faccio quella di Minchà, e l'ha fatta del giorno feriale, la deve ripetere di Shabbat. Quindi fa tre Amidot. Ok? Chen be'erev Rosh Chodesh. O ugualmente simile se la vigilia di Rosh Chodesh non ha fatto Minchà, si è dimenticato, im lo itpalel Minchà. E arriva Arvit, che è Rosh Chodesh, e si dice Yalev Yavo, fa Arvit di Rosh Chodesh con Yalev Yavo, poi ripete Arvit di Rosh Chodesh con Yalev Yavo, anche se sta riprendendo la Mincha della... è giusto? No, per carità, non sto dicendo. Volevo dire, quadra, è un concetto che mi sembra normale, sì. Perché se no rischierebbe di dire, soprattutto in questi momenti in cui cambiano, no? È un tempo diverso, è un'altra cosa. Uno direbbe in un momento sbagliato qualcosa che... Ieri mattina questo perché... Devi dire quella che sì, perché siccome mi era preso il dubbio quando sono arrivato tardi il primo giorno, sì. Dico faccio in tempo a fare Shacharit oppure no. Poi insomma stavo nell'orario, però bravo. Siccome il dubbio mi è venuto, me lo sono andato a vedere. Ok, bravo, hai fatto bene. Qual è il dubbio, Ariel? No, sono un attimo perso perché allora io non ho fatto Mincha del giorno feriale. Vigilia di Shabbat. Vigilia di Shabbat. Ok. Arvit, sì. Faccio la vigilia. Amidà di Arvit Shabbat. Shabbat, poi recupero quella di Minchà. Facendo quale Amidà? Quella di Shabbat. Minchà di Shabbat. Non Minchà di Shabbat, Arvit di Shabbat. Due volte la stessa Amidà. Questo è proprio il punto. Il punto è che quando tu recuperi facendo la tefilà, che è l'obbligo di quell'orario. Di quel momento. Ah, okay. Di quel momento. Se no diresti di sabato è una cosa che non è del sabato, sì. Ecco per questo. E non solo, ora diremo, se Arvit di Rosh Chodesh ti è saltato. Okay. Diciamo per esempio, mercoledì sera è Rosh Chodesh, non ho fatto Arvit. Domani mattina, mi sono ricordato, faccio Shacharit due volte. Ok? Quando faccio Shacharit due volte, se nella seconda volta non ho detto Yalev Yavo, e Rosh Chodesh, devo ripetere una terza volta con Yalev Yavo, perché la tefilà che fai va secondo l'orario in cui la fai. Visto che adesso è Rosh Chodesh, devo dire Yalev Yavo, e se non lo dico in una tefilà normale, devo ripetere l'Amidà, anche se è una tefilà di recupero, vale la stessa cosa. Che per la sera di Rosh Chodesh non devo ripetere per Yalev Yavo se manco. C'è una differenza a Rosh Chodesh, che la Arvit di Rosh Chodesh, se si manca Yalev Yavo, non si deve ripetere la Midah, solo a Shacharit e Mincha. Però visto che adesso sono a Shacharit, se ho perso Yalev Yavo, anche se è solo della tefilà di recupero, devo recuperare la tefilà di recupero con Yalev Yavo. Ok? In altre parole, questo è sempre lo stesso principio, che si va secondo l'orario del momento, secondo la tefilà, che è dovuta da quel orario. Ok? C'è una eccezione a questa regola. Vediamo. Ube Shabbat im lo itpalel mincha. Se sabato pomeriggio Shabbat non ha fatto mincha, ovviamente deve recuperare due volte Arvit dell'uscita di Mozè Shabbat. Mitpalel Arvit gam ken shtaim shel chol. Che tipo di amidà fa di quella di recupero? Arvit di giorno feriale, come Mozè Shabbat, la stessa che ha fatto, ripete. Però, Ela Shiesh Chiluk Be'atachon Antanu, c'è la differenza che riguarda solamente il brano Atayv Dalta, o Atachon Antanu, cioè il brano di Avdalah, che in questo caso, anche se si recupera, e anche se è l'orario di Mozè Shabbat, Barishona Omer Atachon Antanu. Nella prima dice Atayv Dalta, il brano di Avdalah, nella prima delle due Amidot, che è quella del momento, ma in quella di recupero non la dice. Perché? Perché quella è una Avdalah. L'Avdalah non serve fare due volte. Non è un ricordo del giorno come Yalev Yavo o altre cose. È semplicemente una funzione di Avdalah. Non serve fare Avdalah due volte. Domanda. Sì? Se non serve farla due volte. Allora perché io la faccio l'amidà? No, non serve fare due volte nell'amidà. Ma serve fare due volte, una volta nell'amidà e una volta sul bicchiere. Questo sì, è un altro discorso. Però no, come se dicessi la fai due volte sul bicchiere? No, una volta nella tefilà e una volta sul calice. Ven mavdilin shteipe amin bitfilà. Non si fa l'avdalà due volte nella tfilà, dice. E la stessa cosa sarebbe il contrario, ovvero sia, se si è dimenticato im shachach arvit bemotze shabbat, si è dimenticato di fare arvit sabato sera, quindi non solo non ha fatto arvit, ma non ha detto neanche a Taiv d'alta, perché non ha fatto arvit, allora la mattina mitpalel shacharit shtayim, fa due volte la midah di shacharit la mattina, ve omer bitfilat atashlumin atachonatanu, e nella prima tefilah di shacharit che fa, non aggiunge niente, perché è quella della mattina, ma nella seconda che recupera quella di arvit, aggiunge a Taiv d'alta, perché l'ha mancato ieri. Fisce mi cara takana tzarich l'avdil bitfila. Perché? Tu dici, scusa, ieri ha già fatto l'avdala sul calice, Shabbat è già finito, ha fatto tutto quello che non si può fare di Shabbat. Perché? La istituzione originale di Havdalah era nella tefila. Poi si è aggiunta quella sul calice. I Chachamim hanno aggiunto. Di conseguenza non possiamo perderla. Anche se non l'hai fatta ieri sera, la recuperi nella tefila che fai di recupero domani mattina. Ok, concludiamo qui. Mancano 4 minuti. Zacca a tutti quanti.